raggiungere in ogni posto, anche in paradiso. Tu mi rendi felice quasi come un bambino. Ti prego, stammi vicino. Penso la nuit che tu sei l'amore mio. Centro commerciale, con in mano le vodche, sì, ma senza comprarle. So usare la voce, le parole fanno male. Più delle botte, più delle armi scariche, più della droga in palline. Ti voglio bene, amore mio, ti raggiungere in ogni posto, anche in paradiso. Tu mi rendi felice quasi come un bambino. Ti prego, stammi vicino. Penso la nuit che tu sei l'amore mio. Sulla croisette con due joint e l'argent. Suite a 5 stelle L. Como como tu t'appel. Ti tratto come un milord. Ti scopo come un gangster. Sì sì, tu sei l'amore mio. Di che sei solo mia. No, non mi dire addio. Stai con me tutta la vita. Nei loft o nella via. Scappo da polizia. Non mi basterà il mondo se non avrò te. Stavo ripensando che certe notti erano fregge. Però c'eri tu con me, e non mi mancava niente. Penso la nuit che tu sei l'amore mio. Mio, duran troppo tempo. Quelle notti in cui voglio il tuo sorriso. Fingo di starti vicino. Amore mio, amore mio, mo scinia svido. Amore mio, mo scinia svido. E spenca la pa' messi, mo je l'aime comme ça. Je suis l'homme de sa vie, j'suis pas que de passage. Espère que j'fais pas si, espère que j'fais pas ça. Mais j'calcule pas les filles, même si ma tête c'est le bazar. Sei l'amore mio, mio, duro.